24 mattino. Eccoci qui alle 8 e 17 minuti, ben ritrovati al momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Eccoci. Sorda più che mai stamattina. Sì, dovete sapere, mi dice sempre alza, alza, alza. Adesso sento tutto perfettamente. Ho il controllo del volume delle cuffie, quindi ecco, stai attenta perché che posso esatto. anche togliertelo. Mi vuoi stordire, già lo so, mi vuoi eliminare. Allora, eccoci. No, non dire così che poi ci scrivono che ci vogliamo male. Social card, oggi parliamo di questo tema discusso anche, ma insomma ci sono delle novità. Esatto, allora torniamo a parlare di questo tema che abbiamo affrontato varie volte, sia in questa sede a Soldi e Dintorni che a Salvadanaio, la social card, la carta acquisti introdotta dal decreto anticrisi lo scorso dicembre a favore degli anziani più bisognosi e delle famiglie con bambini piccoli. Anzi, per la verità, non era stata introdotta dalle misure anticrisi, era già stata prevista in finanziaria l'estate scorsa. Qual è il punto? Intanto lo ricordiamo, è stata un'operazione che in particolare in dicembre ha generato diverse polemiche, Alessandro lo ricordava, perché quando in molti hanno materialmente ritirato la carta imposta, molti anziani, molte famiglie che pensavano di averne il diritto, al momento dell'utilizzo hanno scoperto che la carta non era stata caricata dei famosi primi 120 euro, i 120 euro corrispondenti ai mesi di settembre, ottobre e novembre. E infatti erano stati riaperti i termini poi per inoltrare la domanda. Oggi qual è il punto? Che il governo, ricordiamo, aveva previsto di erogarne inizialmente 1.300.000, invece di questi banchi Bancomat, che contengono un diritto di spesa di 40 euro al mese, ne sono stati distribuiti poco più di un terzo, cioè 500.000. Ecco perché il governo sta studiando un nuovo decreto che in qualche maniera riapra la possibilità per far richiesta della social card. Sentiamo allora a quali condizioni. Questa mattina ne parliamo con Maria Rosa Gheido, che è consulente del lavoro ed esperta in materia previdenziale per il Sole 24 Ore. Dottoressa Gheido, buongiorno. Buongiorno a allora, voi e agli ascoltatori. In verità sono ancora delle indiscrezioni, non c'è nulla di certo, ma a quanto pare il governo appunto ha allo studio queste nuove misure con la collaborazione dell'INPS. Perché? Con la collaborazione dell'INPS, perché in realtà più soggetti sono coinvolti in questa operazione, dal Ministero delle Finanze all'INPS, alle Poste, e l'INPS è comunque colei che detiene il pacchetto pensionati, quindi tutti i dati disponibili come età e come anche dati reddituali. Quindi il Ministero delle Finanze sta in questo momento, in questo periodo, studiando quale può essere l'impatto dell'innalzamento del limite reddituale, che oggi è di 6.000 euro per gli anziani che hanno almeno 65 anni ma non più di 70, quindi la prima fascia d'età, che è pensato quindi di innalzarlo agli 8.000 euro che già sono in vigore per coloro che hanno 70 anni o più. Quindi questo innalzamento fa immaginare di poter portare la platea a quel milione di utenti che inizialmente faceva parte del progetto. Quindi l'eventuale innalzamento del reddito non dovrebbe riguardare le famiglie con bambini fino a 3 anni? Perché anche questa fascia sociale è interessata all'erogazione della social card, almeno in questa prima fase. Diciamo che la notizia che così è trapelata parla di innalzamento del limite per gli anziani. Io non escluderei però che a questo punto ci sia un innalzamento generalizzato, che oltretutto renderebbe anche più semplice, come posso dire, la distribuzione delle informazioni e quindi l'accesso ai requisiti. Anche perché sono disponibili, secondo le stime che ha fatto il governo, risorse per almeno 900 milioni, per cui è probabile appunto che anche i nuclei familiari che hanno bisogno possano rientrare in questa nuova partita. È possibile prevedere i tempi di attuazione del nuovo decreto, dottoressa Gheido? Beh, questo direi di no, perché insomma ovviamente il tutto è complicato dalla situazione di crisi, dalla diminuzione delle entrate fiscali, dagli eventi che purtroppo hanno colpito il nostro paese. Quindi anche credo lo studio economico della fattibilità può avere complicazioni, però mi è sembrato di capire che ci sia voglia di farlo in fretta e quindi penso che si possa attendere una variazione in tempi abbastanza brevi. Ricapitoliamo un po' la questione, a prescindere dall'utilizzo che si può fare della social card, per il quale praticamente chi l'ha già ritirata e la sta utilizzando continua ad avere la ricarica appunto della carta, e credo che l'avrà, se non ricordo male i tempi, dottoressa Gheido, per tutto il 2009. Sì. Quindi 40 euro al mese in realtà viene caricata ogni bimestre. Ecco, dicevamo 1.300.000 potenziali destinatari secondo le stime iniziali del governo, 500.000 coloro che invece la stanno utilizzando materialmente. Come mai secondo lei ci sono state, c'è stata questa... questa differenza di cifre? Sì, gli ultimi dati del Ministero delle Finanze parla di 533.000 richieste accolte, quindi c'è effettivamente una grossa differenza. Credo che abbia anche giocato in questa valutazione il limite dell'ISE, cioè dell'indicatore di capacità economica del nucleo, proprio perché noi abbiamo i due limiti reddituali che sono i 6.000 e gli 8.000 euro, che sembrano molto facili, diciamo, come da limite di povertà, sì. Però nello stesso tempo c'è questo limite dell'ISE che tiene conto di tanti fattori e che talvolta, anche in presenza di un reddito personale così basso, può far venir meno il requisito. I fattori, ricordiamolo, il possesso di un'abitazione, di un'automobile, sì, ma anche il deposito sul conto corrente. Sì, non ci debbono essere 15.000 o più euro di risparmio in banca e alle poste. Fra l'altro è un dato che è considerato da soli o con il coniuge, quindi non ci deve essere un accumulo di risparmio che superi i 15.000 euro, anzi almeno pari a 15.000 euro, e poi c'è una serie di vincoli, una sola utenza energetica, una sola autovettura, e quindi è chiaro che tutti questi fattori in qualche modo non erano nemmeno così valutabili quando si è pensato all'iniziativa. Quindi, tra l'altro, se posso così inserire una piccola informazione che è uno dei pochi elementi di novità in materia, proprio l'INPS ha fornito dei modelli nuovi per consentire ai nuclei familiari, a coloro che godono già della CARD e che eventualmente cambiassero o residenza, ma più probabilmente utenza energetica e nel gas, magari andando ad aderire a una compagnia che offra sconti ai possessori della social card. Quindi è stato inserito un nuovo modello che consente di segnalare il cambiamento di utenza o al limite il cambiamento di residenza. Insomma, in teoria le opportunità ci sono, poi qualche volta andare a caccia delle informazioni necessarie per poter come dire, concretamente utilizzare queste opportunità è un po' più complicato. E allora, il limite di reddito che forse potrebbe alzarsi, in ogni caso rimarrà combinato agli altri requisiti, l'ISE, il possesso di abitazioni, automobili, il deposito sul conto corrente. Comunque la partita della social card in settembre dovrebbe riaprire. Io volevo anche ricordare un'altra cosa, che ci sono molte regioni che per esempio grazie ad un decreto ministeriale di febbraio hanno integrato con ulteriori fondi quanto già il governo erogava con la social card di 40 euro al mese. Per esempio il Friuli Venezia Giulia ha stanziato appunto fondi che permettono di integrare la social card con 20 euro al mese. Ci sono poi anche comuni che si sono mossi individualmente, come per esempio il comune di Alessandria, che accredita ulteriori 40 euro al mese. Adesso aspettiamo settembre per capire, appunto, ribadisco, se questa partita si riaprirà, e naturalmente con la dottoressa Gheido poi ricorderemo tutte le modalità per far domanda della social card. Dottoressa, buongiorno e grazie per essere stata buongiorno, con noi. Buongiorno, grazie a voi. Buona giornata, Alessandro. E allora, Salvadanaio. Salvadanaio, oggi parliamo dell'acquista, dell'acquista dell'acquisto della casa. Andiamo a rogito tranquilli con tutta la documentazione che documenti che la nostra casa sia completamente a posto, con certificazioni, eccetera. Sono le 8:31, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Per l'accusa pianificavano un attentato all'aeroporto di Parigi, cercavano di reclutare attentatori suicidi da mandare in Afghanistan e in Iraq. Sono Bassam Ayaichi e Rafael Gendron, raggiunti stamattina da due provvedimenti di arresto dalla magistratura di Bari. I due, accusati di far parte di una cellula di Al-Qaeda, erano già in carcere dal novembre 2008. Sull'immigrazione ancora il confronto politico. Per il presidente della Camera Fini, l'Italia deve stabilire tra sé tra chi viene respinto, cioè qualcuno che abbia diritto a chiedere asilo. E Berlusconi, ieri in tarda serata dall'Egitto, precisa: sui barconi che portano immigrati verso l'Italia praticamente non ci sono persone che hanno diritto d'asilo, al di là di alcuni casi eccezionalissimi. E oggi il governo chiederà la fiducia sul DDL sicurezza, che prevede tra l'altro l'introduzione del reato di clandestinità, la regolarizzazione delle ronde, l'allungamento di permanenza dei clandestini nei centri di identificazione, stretta anche sui matrimoni misti, lo straniero extraeuropeo per sposarsi dovrà presentare il permesso di soggiorno. Infine, per il ciclismo al Giro d'Italia, seconda vittoria di tappa ieri per Alessandro Petacchi, che conquista anche la maglia rosa. Oggi la quarta tappa si arriva a San Martino di Castrozza. E allora alle 8:33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Sembra davvero l'Italia quello un paese in cui i conti col proprio passato, soprattutto con un certo passato, quello degli anni di piombo, davvero non si riesce a farli. Ieri, incidentalmente, lo dirò, sono apparse anche delle scritte sul quotidiano, sui muri del quotidiano La Stampa: Calabresi assassino, Pinelli assassinato, nessuna pace con lo Stato. Ma non vi dedicherò più di questa citazione, che vedete anche in fotografia, questi farabutti che hanno scritto questa cosa, tra l'altro proprio non a caso, insomma, sul quotidiano La Stampa, il cui direttore da qualche giorno è proprio Mario Calabresi, il figlio del commissario assassinato dai terroristi. Più interessante, insomma, su Il Giornale oggi: ma davvero volete liberare 200 terroristi? E ci sono le foto di tanti che si sono macchiati in passato di delitti, molti sono in carcere, altri no, altri in carcere non ci andranno, altri sono in attesa di estradizione, per esempio il caso Cesare Battisti, 4 ergastoli da scontare, è in Brasile, ora dice in attesa della decisione dell'estradizione, piuttosto che venire in Italia mi ammazzo sostanzialmente. Io voglio salutare Alberto Torreggiani, che saluto, buongiorno Torreggiani. Alberto Torreggiani, vogliamo ricordare, figlio di Pierluigi Torreggiani, il gioielliere ucciso per uno di questi ergastoli che deve scontare Cesare Battisti, ex militante appunto del PAC, i proletari armati per il comunismo, e proprio l'uccisione di suo padre, il gioielliere Torreggiani. Le chiedo banalmente che effetto fa, insomma, c'è stata questa intervista che è stata anticipata, verrà trasmessa sabato nella TV franco-tedesca, un'intervista che oggi dicono i giornali sembra molto concordata in vista della decisione dell'estradizione. Che effetto le fa sentire queste parole di Battisti? È vero, hanno ragione, è tutto sempre concordato, ogni volta che c'è un giurista, un qualcosa che deve essere verificato, giudicato nei confronti di questo signore, lui o il suo avvocato o chi, l'entourage che gli sta dietro, da bravi ragazzi mettono sempre la spina per potersi creare la condizione di vittima. Lei come attende questi giorni? Tra l'altro noi siamo collegati anche con un collega della stampa dal Brasile, tra poco andremo a capire, insomma, che fine ha fatto Cesare Battisti, questa causa di estradizione, sembrava vicina, ora è lontana, il Brasile insomma è un po' contraddittorio, con che stato d'animo lei attende questa decisione che potrebbe arrivare entro fine maggio? Ma guardi, da quando la Corte Suprema ci ha dato che si sarebbe preso in causa il caso Battisti, per cui avrebbero poi loro dato giudizio, e loro sono l'unico ente in Brasile che deve giudicare e deve dare diritto, per cui una volta che loro hanno giudicato, quella sarà la definizione. Noi siamo rimasti qua in silenzio e fiduciosi, non abbiamo mai fatto niente per poter depistare o creare qualche attrito nei loro confronti, ecco, proprio perché è giusto che sia così, bisogna stare in silenzio e aspettare, ed è quello che continuiamo a voler fare. Anche se oggi avviene qualcosa davvero di incredibile, io posso dire, in un paese peraltro democratico come è il Brasile, e per questo io voglio salutare Paolo Manzo, che è corrispondente da Brasile per La Stampa e per Panorama. Paolo, buongiorno, dovrei dire buonanotte, ti ringraziamo perché è piena notte in Brasile, ma tu sei in diretta con noi. Cosa succede oggi? In Parlamento si discute del caso Battisti, e chi soprattutto ne discute? Sì, c'è questa audizione alla Camera a Brasilia, dove ci sarà, oltre all'avvocato Greenhalgh, che assiste, uno dei tanti avvocati che assistono Battisti, oltre al ministro Tasso Genro, responsabile, autore della concessione dello status di rifugiato politico, soprattutto ci sarà Achille Lollo, che sul sito della Camera è semplicemente presentato come giornalista italiano radicato in Brasile, mentre è lo stesso Achille Lollo che nella notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 bruciò vivi Stefano, 8 anni, e Virgilio, 22 anni. Mattei, il rogo di Primavalle. Esatto. Cioè Achille Lollo, che appunto è accusato in Italia e condannato di questo reato, il rogo di Primavalle, vive da 20 anni in Brasile ed è definito dal Parlamento brasiliano nel sito dell'audizione giornalista che vive, sarà lì in Parlamento per che cosa? Difendere Cesare Battisti. Insomma, questo è il contesto per far capire agli ascoltatori. Esattamente, questo è il contesto, si discuterà, Achille Lollo parlerà di diritti umani e del caso Battisti alla Camera a Brasilia, la Camera brasiliana. E questo è il contesto per cui Achille Lollo è oggi un cittadino italiano libero, perché il reato è stato prescritto, però comunque è stato condannato nei 3 gradi di giudizio dalla giustizia italiana come responsabile. Appunto del rogo di Primavalle, tra l'altro concesso un'intervista nel 2005 al Corriere dove parlò di questo caso. E allora Alberto Torreggiani, insomma, che effetto le fa a questo punto, voglio dire, tra l'altro ieri Paolo Manzo qui in collegamento ha intervistato anche il legale di Battisti, Luis Roberto Barroso, che ha detto beh, ma insomma erano anni così, in fondo anche Torreggiani, cioè suo padre, viaggiava armato. No? Due punti. Il primo, per allacciarci a questa condizione di questo Lollo che va domani in giudizio, io voglio ricordare che a marzo, quando abbiamo fatto la chiusura dell'ambasciata brasiliana, avevamo fatto la richiesta, io precisamente con l'onorevole Daniele Santanchè, di andare in Brasile e dare il nostro punto di vista, il nostro giudizio, che è legittimo farlo, perché comunque hanno, penso che un gran giurì debba ascoltare tutte e due le parti prima di poter giudicare. A noi è stato espressamente vietato farlo, per cui è a tutt'oggi. Poi ieri scopriamo invece che non solo Lollo, che non ha niente a che fare, che non c'entra nulla, va a parlare, io posso capire, posso parlare direttamente Battisti, io posso parlare direttamente il suo avvocato, ma non solo, c'è Barroso che è il suo nuovo avvocato, c'è tutta la parte sinistra, la politica che lo appoggia e può parlare. Ora mi chiedo se in un paese democratico è corretto, democrazia, che si permetta soltanto ad una parte di ascoltare e non all'altra di poter in qualche modo magari rettificare. Ora poi noi ci preoccupiamo se qualche cretino va a scrivere sui muri che Calabresi è un terrorista confronto alla Pinelli che invece è la vittima. Non hanno capito niente, che tutte e due sono state vittime di un fuoco incrociato di menti idiote, che terrorissimo si possono chiamare. Io su questo, infatti, Paolo Manzo, la domanda da Brasile è questa: ma chi sostiene Battisti? Anche qualcuno ci chiede economicamente, cioè chi è a fianco di Battisti? Perché in uno Stato democratico, lo voglio ribadire per la terza volta, come il Brasile si permette ad Achille Lollo di andare in Parlamento e a parlare a favore di Battisti, a dire insomma che è un rifugiato politico, che in Italia qualcuno ha detto, il ministro della giustizia rischierebbe addirittura di essere torturato, di essere trattato, insomma, ma che c'è dietro tutto questo? Sicuramente c'è un appoggio molto forte da parte di alcuni molto autorevoli esponenti del partito del presidente Lula, del PT. Faccio una correzione a quello che ha detto Torreggiani: oggi alle 2 del pomeriggio qui in Brasile ci sarà l'avvocato non Barroso ma Greenhalgh, che è quello che c'era prima tra i fondatori del PT, molto amico. Però insomma l'intervista che hai fatto tu all'avvocato Barroso ieri invece a me ha molto colpito, quando dice beh, ma anche Torreggiani andava in giro armato. Torreggiani era un gioielliere, no, innanzitutto, ma voglio dire, fa capire il contesto della follia insomma di alcune dichiarazioni. Ma no, ma questo è per, chiaramente lui è l'avvocato difensore, quindi dice delle cose che a noi possono fare impressione, come quando fa la distinzione tra omicidi, tra crimini politici, crimini comuni e terrorismo. In sostanza nel secondo e nel terzo caso ci sarebbe l'estradizione, nel primo caso allora si cerca di far passare come crimine politico l'omicidio di un gioielliere o come è stato in altro caso di un macellaio, voglio dire, e quindi tutta una serie di dichiarazioni, al punto che io ho chiesto anche poi off the record dopo a Barroso se nel caso qualcuno uccidesse per assurdo chiaramente il presidente Lula, lui l'avrebbe considerato un crimine politico, un omicidio comune o un atto di terrorismo. Lui mi ha detto no, assolutamente terrorismo lo escludiamo, un crimine politico. Io gli ho chiesto ma allora per essere terrorismo cosa deve essere? Deve essere una bomba, mi ha risposto lui. Ah, va bene. Se lei mette la bomba sotto il palco quando Lula parla, allora è Ma ti chiedo, Paolo, la decisione quando arriverà? Qualcuno dice a fine maggio, poi i giornali brasiliani ne parlano e ci sono anche persone invece che dicono: ma no, ma ridiamola all'Italia, questo che deve scontare quattro ergastoli. Una cosa, innanzitutto, l'opinione pubblica brasiliana è nella stragrandissima parte, parliamo del 95%. Alle stesse percentuali che ci sono in Italia. Ieri il presidente dell'Istituto brasiliano, Giovanni Falcone, un magistrato che collaborò con Falcone nella cattura di Buscetta, mio amico Walter Fanganiello Majerovic, ha fatto un intervento sulle minacce di Battisti di suicidio e ha avuto centinaia di commenti in pochi minuti. Sì. Cioè ho capito, il 95% dell'opinione pubblica è a favore dell'estradizione, cioè di mandare in Italia. Sicuramente sì, sicuramente sì. Adesso chiaramente se ne parla molto di meno, perché la questione è sotto chiaramente di tipo giuridico. Certo. Oramai. E entro fine maggio è una data certa, insomma, che si dovrebbe dire un sì o no a questa estradizione. Sì, fine maggio, però ecco, a questo punto paradossalmente direi che chi ha interesse a tirare più per le lunghe la questione, nonostante l'assistito, questa è la mia impressione, nonostante il loro assistito sia in carcere, è proprio la stessa difesa. Certo. Allora oggi come detto è una giornata importante in Brasile per questa audizione in Parlamento. Ci toccherà anche questa, insomma, di sentire cosa dirà Achille Lollo a favore, si presume, di Cesare Battisti, per carità. E registreremo anche questo, insomma. Io ringrazio Alberto Torregiani, voglio ricordare il figlio di Pierluigi Torregiani, ucciso il 16 febbraio 79, ucciso per quell'omicidio, anche per quell'omicidio Cesare Battisti è condannato all'ergastolo, ne ha 4 da scontare in Italia, così come ringrazio Paolo Manzo, corrispondente al Brasile per Stampa e Panorama. Allora, l'ultima parte di 24 Mattino, il testimone di giustizia è una persona che è testimone, come dice la parola, di un delitto, di un crimine, e sente il dovere di testimoniare, cioè di stare dalla parte dello Stato. Ricordo, premessa, è ben altra cosa dal collaboratore di giustizia, che è un criminale vero e proprio, che poi a un certo punto fa il salto e passa dall'altra parte. Il testimone di giustizia è una persona per bene, che anzi sta dalla parte dello Stato. Io saluto Pino Masciari. Buongiorno Masciari, come sta? Buongiorno a lei. Pino Masciari è un testimone di giustizia che da tanti anni in Calabria ha fatto condannare tantissime persone, perché da imprenditore lei subiva sostanzialmente estorsioni, pizzo eccetera, finché ha detto basta. Quante persone ha fatto condannare, quanti processi ha fatto condannare stando dalla parte dello Stato? Innanzitutto volevo fare una precisazione: io non mi ritengo neanche un testimone di giustizia, io mi ritengo un imprenditore che ha esercitato e ha voluto avere giustizia, facendo applicare le leggi emanate dal nostro Parlamento nel rispetto della nostra Costituzione. Un imprenditore che denuncia le vessazioni, gli abusi, le violenze che vengono, oppure le richieste del racket che la criminalità organizzata, i poteri occulti, politici e mafiosi si annidano e fanno affari in tutto questo. Io ho fatto questo, ho denunciato. Lei ha denunciato, ma a me ha sempre colpito, una volta che ci sentimmo, anche lei diceva i mafiosi chiedevano il 3%, i politici il 6%. Questa era la, no? Sì. erano 300 mafiosi, e io ho denunciato la mafia, l'andrangheta delle quattro province, tra i capi di Isola Capo Rizzuto, gli Arena, che hanno subito proprio una condanna proprio l'anno scorso, lui insieme a altri 10, e dove il 22 gennaio del 2008, e oggi esce alla ribalta più vivo che mai proprio qui in Lombardia e in Emilia Romagna, dove hanno messo le mani sui lavori dell'Expo del 2015, sulla TAB e sull'ampliamento dell'autostrada. Quindi ecco, anche se hanno subiscono le condanne, però purtroppo sono sempre più vivi, sono sempre più infiltrate all'interno delle istituzioni e quindi fanno sempre più affari. Senta, lei ha denunciato tutto questo, è stato messo nel programma di protezione di cui adesso non fa parte, insomma è stato mandato, come si succede in questi casi, lei, la sua famiglia, i suoi figli in una località protetta, lei ha sempre denunciato ma con scarse garanzie, scarsa sicurezza, addirittura andava ai processi e l'accompagnavano col nome vero, con le targhe riconoscibili della località dove lei viveva. Lei oggi farà un gesto di protesta molto forte, si trova a Roma, questo lo possiamo dire, farà al Quirinale, davanti al Quirinale, inizierà uno sciopero della fame. Perché? Perché? Perché io ho aspettato tanti anni, io sono 20 anni, ho 50 anni oggi, sono più di 20 anni che io combatto questo sistema di illegalità, questo sistema di mafiosità che ormai è diventata la normalità nel nostro paese, e quindi di convivenza. Io ho denunciato, io mi sento molto ossequioso dello Stato, ho un senso di Stato, mi piace rispettare le leggi emanate dal mio Parlamento, lo ripeto, lo ribadisco sempre, ho rispetto verso tutte le istituzioni. E allora ho aspettato che si chiudesse un cerchio, è quello giudiziario, dove ho atteso per lunghi anni che ci fossero le condanne, poi anche le delibere dove ero stato estromesso dal programma di protezione impugnando queste delibere, ma non solo. Ce n'è una in particolar modo, quella del 28 luglio del 2004, dove addirittura sono stati esiliati io, mia moglie e i miei figli, dove non possiamo far più rientro nella mia terra, nella mia Calabria, perché sono ad alto rischio. Ma se questo rischio poi significa che dove vivo i miei figli vanno a scuola con nome e cognome vero, non c'è nessuna forma di protezione, di sicurezza, nessuno rispetto verso la persona e della dignità. Mia moglie è un medico odontoiatra, io un imprenditore, un industriale che dava posto a centinaia di persone, circa 200 famiglie lavoravano intorno alla mia azienda, e oggi mi ritrovo dopo tanti anni, 12 anni di programma di protezione, che non faccio più nulla. Ecco che allora, dopo aver aspettato, impugnando queste delibere di estremissione del programma di protezione dinanzi al Tribunale Amministrativo, che è l'unico organo che può amministrativamente dare una svolta, mi dà ragione che il programma di protezione non è a termine, il responsabile individua che il Ministero dell'Interno attraverso la sua commissione, che deve vedere e accertarsi il rischio effettivo della famiglia. Come ben noto, il servizio centrale negli atti depositati al TAR dicono che io sono ad alto rischio di vita. Quindi lei si sente tradito, abbandonato da quello Stato che lei... Io dico questo, lo Stato sono io, lo Stato siamo noi, e lei, una parte dello Stato, non rispetta quello che è la Costituzione. E io mi sto rivolgendo alle alte cariche dello Stato, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, della Camera, al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in modo tale che prendano atto, perché non è possibile che, a prescindere sentenze e non sentenze, che questa macchina ferraginosa, che questa burocrazia mette in definitiva una famiglia per bene che da 12 anni non la fa vivere. Io non ho avuto tentennamenti quando ho denunciato, io sono stato dritto, sono andato, io sono lo Stato, io sto con lo Stato. Ecco, allora io dico, queste parti delle istituzioni ancora forse non hanno capito da che parte stare. E allora cos'è che io faccio oggi? Io ho consegnato la mia vita, quella di mia moglie e dei miei bambini, in maniera incondizionata, fiducia incondizionata, ancora oggi fiducia incondizionata verso l'istituzione, verso lo Stato, verso la i principi fondamentali della Costituzione. Io ho consegnato la mia vita, oggi gliela riconsegno ancora dopo 12 anni, dopo questo iter giudiziario si è concluso, e gli dico: Stato, oggi io ti riconsegno la mia vita, tu mi puoi dare ancora la vita oppure me la puoi togliere. Se me la togli la vita, perché facendo lo sciopero della fame e della sete posso durare 2 o 3 giorni massimo, perlomeno dico, ridò la libertà, il diritto alla vita a mia moglie e ai miei figli. Ecco, e se il prezzo, ciò a dimostrare che il prezzo che io devo pagare per aver osato, dico, alzare quel pentolo, quel coperchio di quella pentola bollente che è l'andrangheta calabrese e le sue collusioni, che oggi è più viva che mai, l'andrangheta è l'organizzazione più potente al mondo. E questo è vero, e questo no, e questo è assolutamente vero. Guardi, io non le ho fatto tante domande, come vede, l'ho fatta parlare Pino Masciari perché forse è bene che il suo appello venga ascoltato molto di più. Registro, oggi sui giornali non ho trovato mezza riga della sua storia. Noi siamo qua, come sa, noi ci conosciamo, insomma le faccio tanti in bocca al lupo, anche se so che porta avanti questo gesto molto molto clamoroso. Stamattina ci sarà la conferenza stampa, credo alle 11 al Quirinale, noi la seguiremo. Le facciamo tanto in bocca al lupo a lei e alla sua famiglia, ovviamente. Mi devo fermare qui. Tra poco Giuliano Ferrara. Grazie a tutti e ci ritroviamo domani.